Europa 24. Grillo sì, Grillo no. Il dialogo con gli euroscettici agita il voto per il presidente del Parlamento europeo, ormai imminente. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti a questo appuntamento con l'Europa. Oggi potremmo ripartire nella vicenda, appunto, Movimento 5 Stelle Liberali Europei, dalla stilettata di Manfred Weber a Guy Verhofstadt il giorno dopo il mancato accordo per l'ingresso degli eurodeputati del Movimento 5 Stelle nel gruppo ALDE, guidato dall'ex premier belga. Se guardiamo a Verhofstadt, si direbbe la sua firma non vale la carta su cui è messo, ha detto il capogruppo del PPE con riferimento all'accordo fatto nel 2014 quando l'ALDE si aggregò al patto tra popolari e socialisti per una coalizione europeista di legislatura che prevedeva la conferma della presidenza del Parlamento europeo ai socialisti nei primi 2 anni e mezzo e l'alternanza coi popolari nella seconda metà. Insomma, momento di scontro in questa giornata, momento anche di dichiarazione di chi si tira fuori. Non avrei potuto più guardarmi allo specchio se quel patto fosse andata in porto. Così Nils Torvald, uno degli animatori della retromarcia dell'ALDE nell'accordo. Molte voci, molti commenti. Allora sentiamo il pezzo di Beda Romano, appunto, su questa vicenda, il corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, e poi torniamo sull'argomento. Il tentativo politico del Movimento 5 Stelle di aderire al gruppo liberale ALDE ha lasciato non poche sequele nel mondo parlamentare europeo. Per il partito di Beppe Grillo, l'insuccesso indebolisce i 17 parlamentari italiani che rischiano di dover lasciare l'attuale gruppo con il UK Independent Party e finire la legislatura tra i non iscritti. Sul fronte liberale, il capogruppo Guy Verhofstadt, che ha promosso l'adesione del Movimento 5 Stelle al gruppo liberale, è gravemente indebolito dopo che molti suoi deputati si sono opposti all'unione con i grillini. Per Verhofstadt la partita è delicatissima, poiché l'ex premier belga si è candidato alla presidenza del Parlamento europeo. Il voto è previsto la settimana prossima. A molti osservatori l'esponente politico appare indebolito. Ci si chiede ormai verso quale candidato andranno i voti liberali, verso il socialista Gianni Pittella o verso il popolare Antonio Tajani? In una conferenza stampa stamani qui a Bruxelles, il capogruppo popolare, il tedesco Manfred Weber, ha fatto quadrato intorno al candidato del centrodestra. L'esito del voto della settimana prossima rimane però molto incerto. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E Gianni Pittella, che viene citato appunto nel servizio che abbiamo appena sentito, l'ha definita un'operazione innaturale e incauta, poi detto apprezzo che alla fine si sia deciso come si è deciso. Così il candidato socialista alla presidenza del Parlamento europeo, Gianni Pittella. Per quanto riguarda il dopo, dice: non so cosa faranno i colleghi 5 Stelle riguardo al voto, all'orientamento in vista del voto in Parlamento, quindi proprio della presidenza del Parlamento europeo. E conclude: ho mandato la mia lettera programmatica a tutti, spero considerino il modo in cui intendo valorizzare tutti gli eurodeputati. Insomma, la vicenda del mancato ingresso dei deputati del Movimento 5 Stelle nel gruppo liberale in qualche modo si rovescia su quello che è l'imminente voto per la guida del Parlamento europeo, la successione a Schulz. Note di molti partiti, c'è anche chi dice, come il capogruppo dei Verdi al Parlamento europeo, il belga Philippe Lambert: né Gianni Pittella né Antonio Tajani rispondono ai nostri criteri. Così ci ricorda questa sfida, diciamo, tutta italiana per il posto tra esponenti socialisti e esponenti del centrodestra. Lambert dice, appunto, sull'orientamento del voto, dice: i due italiani nelle diverse posizioni non rappresentano i nostri criteri. E invece quella di Verhofstadt potrebbe essere una candidatura interessante. Verhofstadt, che è candidato appunto insieme ai due italiani, e che viceversa proprio gli eventi di queste ore sembrano esporre, diciamo, indebolire rispetto alle sue possibilità di presiedere appunto l'emiciclo europeo. Staremo a vedere naturalmente tutti gli aggiornamenti nel corso dei nostri giornali radio. Un saluto, a domani. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.